in primo piano. Siamo arrivati alla rassegna stampa, buongiorno, ben ritrovata Giulia Crivelli. Buongiorno a tutti. In primo piano oggi sulle testate italiane. Ma direi ancora la crisi economica, la Libia e poi un pochino di politica, perché naturalmente il fronte italiano della crisi è quello della manovra di Ferragosto, che tra poche ore arriverà in Parlamento con tutte le modifiche proposte da maggioranza e opposizione. Buona lettura Giulia. Grazie, cominciamo quindi dal Sole 24 Ore, che titola Buffett in aiuto di Bank of America. Il riferimento è a Warren Buffett, lo ricorderete nei giorni scorsi ha fatto molta notizia al suo intervento sul New York Times, poi pubblicato integralmente da Repubblica, che ha poi suscitato molte reazioni con il suo invito a tassare di più gli altissimi patrimoni, non certo quelli che in Italia vengono considerati ricchi, cioè la famosa soglia dei 100.000 euro, ma lui parlava di milioni di dollari. Bene, ieri Warren Buffett ha deciso di investire 5 miliardi di dollari in Bank of America e questa è una mossa che ha sorpreso diciamo favorevolmente i mercati. Il Sole 24 Ore apre su questo. Poi c'è l'analisi di Mario Platero su Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve, che oggi interverrà e tutti aspettano naturalmente con ansia le sue parole. C'è in prima pagina sul Sole 24 Ore un'altra analisi, quella di Beda Romano, la Germania è il grande brivido, perché ieri la borsa di Francoforte è quella che ha fatto peggio, perdendo il 4%. Scrive il Sole 24 Ore, Francoforte spaventa i mercati, in serata però rientra l'allarme. Tantissime come sempre le altre analisi del Sole 24 Ore su tutto quello che sta succedendo in Italia e all'estero. C'è, l'avete sentito anche nel GR, c'è uno speciale per il risparmiatore, tornare sui titoli bancari, le mosse giuste per non sbagliare di Maximilian Cellino, poi per quanto riguarda lo speciale portafoglio, i fondi monetari con un'analisi sui bond europei, per quanto riguarda tutto risparmio un focus sulle consulenze finanziarie e poi naturalmente continua anche il focus su Piazza Affari, c'è un'analisi di Vittorio Carlini, i rendimenti fino al 10% per quanto riguarda i dividendi. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo poi anche l'articolo su Steve Jobs. Sapete, Steve Jobs ormai 2 giorni fa ha annunciato via lettera a tutti i suoi dipendenti il ritiro ufficiale. Steve Jobs ha uno dei cancri più insidiosi, quello al pancreas, si sta cercando di curare da molti anni e ora sembra proprio che la malattia e la cura della malattia gli impediscano di avere dei ruoli operativi, quindi sarà semplicemente tra virgolette presidente della Apple, che ha contribuito a fondare. Sul Sole 24 Ore l'analisi è di Luca De Biase e secondo me questo è anche un buon esempio del lavoro che possono fare i quotidiani rispetto diciamo alla cronaca pura. La notizia è appunto di quasi 2 giorni fa, ieri il Sole 24 Ore la data insieme a tanti altri giornali, passata qualche ora ci sono poi le analisi ricchissime su tutti i giornali, come vedremo. Un'ultima segnalazione dalla prima pagina del Sole 24 Ore, oggi in edicola, chi lo compra troverà anche il primo di una serie di DVD che si intitolano Beautiful Minds, è una serie di DVD dedicata ai grandi scienziati raccontati da altri scienziati. Si inizia con Pier Giorgio Di Freddi che racconta Pitagora e Euclide, mi ricordavo solo Euclide ma volevo essere completa, e quindi quella che tutto sommato può essere considerata la nascita del pensiero scientifico. È una lunga serie di 20 DVD, vi segnalo quello che a me è più caro, che uscirà però solo il 16 dicembre, quello dedicato a John Nash e alla sua teoria dei giochi. Tra l'altro la serie prende il nome proprio dalla biografia di John Nash, che si intitolava appunto Beautiful Mind, come del resto il film che era stato dedicato a John Nash con protagonista Russell Crowe. Ma passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che titola sulla Libia, caccia Gheddafi e i figli casa per casa, con un'analisi di Lorenzo Cremonesi che è a Tripoli, e poi naturalmente la notizia che ieri sono stati liberati 4 giornalisti che erano stati sequestrati, 2 sono proprio del Corriere della Sera, Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina, che oggi ci raccontano la loro esperienza. Vi leggo solo le prime righe, il racconto prosegue poi a pagina 8 e 9 del Corriere della Sera. Un foglietto spiegazzato con i nomi in arabo e 2 numeri di telefono. È tutto ciò che ci resta, insieme a una penna rossa con la pubblicità del film Titanic, dei 2 veri protagonisti di questa storia. 2 ragazzi gheddafisti che hanno rischiato la loro vita per riportarci nella zona liberata di Tripoli, attraversando le linee nemiche e lasciandoci solo quando sono stati certi che fossimo al sicuro. La dinamica del rilascio è stata infatti questa. 2 dei due delle persone, i cosiddetti lealisti, cioè leali a Gheddafi, che appunto erano stati protagonisti di questo sequestro, hanno poi fatto in modo che i giornalisti fossero rilasciati. E Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina ci raccontano come. Molto interessante poi sul Corriere della Sera anche il ricordo di quei marinai che sono, sono prigionieri, quindi un altro sequestro che purtroppo non si è ancora risolto, prigionieri dei pirati in Somalia. Non dimentichiamo i cinque marinai, con un racconto di Massimo Alberizzi a pagina 9 del Corriere della Sera. In prima pagina sul Corriere della Sera, per quanto riguarda Steve Jobs, se sul Sole 24 Ore l'analisi di Luca De Biase, il fondatore di Nova, il supplemento scientifico del Sole, che usciva il giovedì e ora esce alla domenica insieme al domenicale, sul Sole 24 Ore invece è di Beppe Severgnini. E poi vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche la vicenda Penati. Penati corrotto ma il reato è prescritto, è un virgolettato dell'ordinanza del GIP che ha negato l'arresto. I PM, l'esponente del PD, si comportò come un delinquente matricolato. E l'analisi, che poi trovate a pagina 23, è di due esperti di giudiziaria del Corriere della Sera, Federico Berni e Luigi Ferrarella. Dalla prima pagina della Repubblica, battaglia a Tripoli, caccia al Rais, liberati quattro giornalisti italiani. Questa naturalmente è un'altra delle notizie di ieri. Secondo gli insorti ci sarebbero già 20.000 morti nella guerra. Sulla prima pagina della Repubblica, con grande enfasi, la notizia di Penati: corruzione gravissima ma prescritta, il GIP dice no al carcere per l'ex presidente della provincia di Milano. E poi ci sono altri due arresti, in questo caso sono Galbiati e De Riccardis, in altre due pagine che si occupano di questa vicenda. Per quanto riguarda Apple e Steve Jobs, l'analisi, sono due pagine anche nel caso di Repubblica, richiamata in prima pagina e poi trovate a pagina 24 e 25, è di Federico Rampini, che è il corrispondente della Repubblica dall'America, da New York. Sulla vicenda Penati vi segnalo una cosa che a me ha molto colpito, che appunto mentre tutti i quotidiani la mettono in prima pagina, l'Unità, che era, non lo è più, ma era ancora sotto al suo logo, cita, fondato da Antonio Gramsci, quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924, era l'organo ufficiale del PC, ora non è più ufficialmente un giornale di partito, ma è pur sempre il giornale più vicino al Partito Democratico. Bene, la notizia di Penati non c'è in prima pagina ed è poi a pagina 30 con il titolo Penati, i reati sono prescritti ma per il GIP ci fu corruzione. E la cosa anche così ironica, se vogliamo, probabilmente involontariamente ironica, è che poi nella bella rubrica di Maria Novella Oppo, dedicata, l'esperta di televisione dell'Unità, dedicata appunto alla televisione, si chiama Fronte del Video, il TG è l'arte di nascondere la crisi, dedicata all'ennesima volta, secondo l'Unità, ma sono anche molti giornali che accusano il TG1 di nascondere la verità, appunto al fatto che il TG1 nasconde la crisi. E l'Unità forse nasconde qualcos'altro, almeno a mio parere. Un po' meglio fa il Manifesto, altro quotidiano ovviamente decisamente schierato, anche se non è mai stato un quotidiano di partito. Il Manifesto titola, ha in prima pagina una grandissima foto sulla Libia, duro a morire, a Tripoli caccia grossa Gheddafi, lo cercano gli insorti e le forze speciali della NATO, il colonnello parla alla radio chiamando i libici alla resistenza. Per quanto riguarda Steve Jobs, che è l'altra notizia a cui tutti danno molto risalto oggi, l'analisi di Matteo Bartocci, ma vi dicevo, secondo me fa un po' meglio dell'Unità quanto a Penati, perché a pagina 4, quindi non a pagina 30 come l'Unità, c'è la notizia: Penati non viene arrestato grazie alla prescrizione, appunto mentre l'Unità diceva che secondo il PM aspetta, vi rileggo il titolo perché secondo me questa vicenda è veramente significativa, il titolo esatto dell'Unità era non lo trovo più, eccolo qua. I reati sono prescritti ma per il GIP ci fu corruzione, per il GIP i reati sono prescritti. E naturalmente passiamo da un opposto all'altro, perché il Giornale invece apre proprio sulla vicenda Penati, le tangenti del PD a tutta pagina, la Libia non c'è praticamente, il Giornale usa la Libia per dare dei consigli a Formigoni, poi chi ha voglia può leggere questo articolo di Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, appunto Formigoni impari dalla Libia, ma vi dicevo il titolo principale a tutta pagina è Penati salvato dal carcere, i PM di Monza hanno chiesto l'arresto dell'ex braccio destro di Bersani, il presidente del Partito Democratico, il segretario del Partito Democratico, accusandolo di concussione. Per il giudice è solo semplice corruzione, quindi il reato è prescritto. E il commento è di Vittorio Feltri, opinionista del giornale. La stessa scelta è quella di Libero, anche se la notizia non è proprio a tutta pagina, perché nella cosiddetta spalla ci sono poi in realtà una notizia sulla manovra, un aggiornamento sulla manovra e la notizia sull'incidente domestico avuto da Umberto Bossi, ma il titolo principale è «L'uomo di Bersani è un corrotto», virgolettato, «per il giudice prove gravissime contro Penati, che non viene arrestato con un cavillo, agli atti anche le notti calde pagate da un imprenditore al dirigente del PD». E poi in prima pagina, comunque Libero mette anche le notizie dalla Libia con un articolo di Maria Giovanna Maglie: Gheddafi è braccato, adesso ci tocca pagare, le mosse del cavaliere per il dopo Rais. Anche esattamente come faceva il giornale, c'è in prima pagina un commento alla vicenda di Formigoni. Come forse sapete, ieri la Repubblica ha pubblicato questa intervista a Roberto Formigoni, che negava di volersi candidare a un possibile ipotetico dopo post Berlusconi. Poi in realtà Formigoni ha parzialmente smentito questa intervista, e comunque Libero e il giornale mettono la notizia in prima pagina. Diamo ora un attimo lo spazio al meteo e proseguiamo poi con le altre pagine altre prime pagine dei quotidiani. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei quotidiani e siamo arrivati a quella, abbiamo visto quelle principali, e ora vi cito quella del Fatto Quotidiano. Il titolo principale me lo chiede tra l'altro un ascoltatore, ma l'avrei fatto comunque perché parlavamo di come i giornali trattano in modo diverso la notizia di Penati. Titolo principale del Fatto Quotidiano è il premier più ricattato al mondo, perché una delle notizie dei giorni scorsi, confermata poi ieri, è che secondo un'inchiesta, Berlusconi avrebbe versato €500.000 al faccendiere pugliese Giampaolo Tarantini. Secondo il Fatto è l'ultima di una lunga serie di donazioni sospette. Perché sono in tanti a chiedere quattrini a Berlusconi e perché lui paga bene, paga sempre, non si è mai visto un capo di governo così sotto scatto. L'editoriale di Marco Travaglio, un Travaglio doc di quelli che fanno forse arrabbiare i suoi detrattori e felici i suoi ammiratori, e si intitola Silvio Matt. La notizia di Penati è subito sotto quella su Berlusconi, ha più o meno la stessa enfasi: Penati fu corruzione, prescritto e salvato. La decisione del GIP di Monza ha evitato il carcere al braccio destro di Bersani, ex presidente della provincia di Milano e appunto ex braccio destro dell'attuale segretario del PD Bersani. Passiamo alla prima pagina della Stampa, c'è il cosiddetto palchettone, che è quel titolo subito sotto il nome del giornale, ed è il racconto di Domenico Quirico, uno dei quattro giornalisti rapiti e poi subito liberati in Libia. Ho visto l'odio dell'assassino, ma sono vivo. Il virgolettato è scritto con dei caratteri molto grandi, e la Stampa dà, secondo me, giustamente l'enfasi a questo racconto sul Corriere della Sera. Lo facevano Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina, i due giornalisti del Corriere rapiti e rilasciati, appunto. Vi leggo solo le prime righe, poi il racconto continua a pagina 2. Ho attraversato la vita di Almadi soltanto per 48 ore. Il giornalista, così come avevano fatto i due giornalisti del Corriere, sceglie di aprire il racconto proprio con il fatto che loro quattro sono stati rapiti e poi liberati, e ora sono vivi e praticamente incolumi. Poi le ferite psicologiche, naturalmente, quelle che dureranno chissà quanto tempo. Invece è morto il loro autista. Non l'avevo mai visto prima di martedì a Zarzis, alla frontiera tunisina. Se vuoi andare a Tripoli, lui è il libico che fa per te, mi aveva spiegato un amico tunisino. È un uomo sicuro, lo conosco, anche se è pericoloso può farlo e non ti tradirà. Era alto, elegante nella sua pella babbia, anche capelli un po' brizzolati nonostante avesse solo 42 anni. Quando gli abbiamo parlato di Tripoli ha scosso un po' la testa. Forse, vediamo, c'è ancora battaglia laggiù, e indicava in televisione i missili, gli sbuffi di fumo che salivano dalla rovina della caserma di Gheddafi. Il titolo subito sotto è Nuova Libia, sfida Italia-Francia. Il governo offre €350 milioni per la ricostruzione. E vi segnalo il Buongiorno di Massimo Gramellini, che è proprio dedicato a questa offerta di denaro, di sbloccando i fondi che ci sono in Italia, e soprattutto di cooperazione, di collaborazione, di aiuto per la ricostruzione venuta subito da Italia e Francia. Scrive Massimo Gramellini: guardando le foto della villa di Madamina Gheddafi mi è tornato alla mente il monologo di suo padre in Italia giusto un anno fa. Dal 1977 ho lasciato tutto il potere al popolo. Per sé e i suoi cari si era tenuto le piscine. È la solita doppia verità della politica, che in pubblico maneggia concetti elevati e in privato pensa agli affari propri e del proprio clan. Che ci caschino i sudditi di un dittatore è quasi patologico. Ma come mai anche noi, cittadini evoluti di una democrazia, continuiamo a bere spremute quotidiane di falsità senza provare un moto di disgusto? Le uniche guerre per la libertà che emozionano i governi occidentali sono quelle che avvengono nei paesi ricchi di materie prime. Se un manigoldo massacra la gente in un deserto zampillante petrolio, è un criminale che va estirpato in nome dei diritti umani. Ma se un manigoldo analogo semina il panico su una distesa di pietre, come sta avvenendo in Siria, le esigenze della libertà diventano subito un po' meno urgenti e prevale il principio di non intervento negli affari interni di un'altra nazione. Non mi illudo più che le classi dirigenti si facciano guidare da principi etici. Pretendo però che ci trattino da adulti e la smettano di pigliarci per i fondelli. Sai cosa gliene importa a Sarkozy della libertà dei beduini? È andato in Libia per impossessarsi dei pozzi dell'Eni. E noi controvoglia lo abbiamo accompagnato per tenerlo d'occhio. Dice il proverbio, la verità è nuda, tocca alla saggezza rivestirla. Alla saggezza però, non alla faccia tosta. E vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero il titolo, l'ultima sfida di Gheddafi, e poi un'analisi di Marco Conti, inviato del Messaggero, patto Berlusconi-Gibril, 350 milioni per la Libia. Sulla manovra invece italiana, sul fronte italiano della crisi economica, il Messaggero titola Provincia è già retromarcia. Ieri tra l'altro al meeting di CL a Rimini c'è stato e andato in scena uno scontro tra Gianni Alemanno, sindaco di Roma, e Calderoli. La Lega rispetti la capitale, ha detto Alemanno. Poi c'è la notizia di Penati, anche per il Messaggero una notizia da prima pagina, tangenti ex Falck, due arresti, il GIP, prescrizione per Penati. La Padania, nel suo palchettone, auguri Umberto, incidente domestico per il segretario, e poi il titolo è una tassa sugli evasori, perché Calderoli ha anche detto questo ieri al meeting di Rimini, Calderoli rilancia la lotta e le verifiche per far emergere chi non ha pagato l'erario sui beni che possiede. Il piano della Lega è per contrastare una piaga storica del paese. Ma vi segnalo soprattutto la prima pagina del Foglio sulla questione Apple e sulle dimissioni di Steve Jobs, amministratore delegato, perché il Foglio, che sì è un quotidiano di opinione, quindi potrete dire anche gioco facile così a lasciare un po' la cronaca, però forse è la prima volta che vedo che dedica così tanto spazio a una notizia, tutto il resto poi è nelle altre pagine. L'apertura a tutta pagina del Foglio di oggi è Se ne va il Cristo dei computer, indagine su un mito planetario disincarnato, la merce come logo e la mela mangiata come icona del nuovo secolo, Cupertino Betlemme, costruzione simbolica della Apple come religione implicita. C'è un articolo che occupa tutta la prima pagina di Claudio Scerasa e che poi segue anche a pagina 3 del Foglio, storia del frutto proibito, Newton, Eva, la East Coast americana, conoscenza, trasgressione, pensiero animato in microchip. E poi c'è un racconto di chi è questo Tim Cook, che Steve Jobs ha scelto come suo successore, sarà il nuovo CEO di Apple, Mr. Cook, la migliore creazione di Jobs che ora guiderà la mela. E poi ancora un'altra pagina, Steve più Jobs più speech più Stanford, la malattia, le sue parole per dirla, le immagini rubate, la contingenza di un essere speciale. È davvero, secondo me, per gli amanti di Steve Jobs, della Apple, ma in generale insomma della tecnologia, perché Steve Jobs e la sua Apple hanno fatto la storia della tecnologia, forse anche della società, della new economy, insomma una parte importantissima degli ultimi 20 anni. E bellissime le analisi di Luca De Biase sul Sole 24 Ore, di Stevenini sul Corriere, di Rampini sulla Repubblica e di Vittorio Sabadin sulla Stampa, però veramente forse quella del Foglio è la più completa in assoluto. E si parlava di verità, e di verità parlava Massimo Gramellini sulla Stampa, la verità che appunto ci dovrebbero dire i nostri leader quando fanno dei proclami, o come in questo caso quando decidono, come ha fatto Sarkozy, di correre a Tripoli per assicurarsi soprattutto commesse post Gheddafi. E vi segnalo in questo caso il mattutino, dalla prima pagina dell'Avvenire, il mattutino di Gianfranco Ravasi, Il Cerino in mano, la citazione che fa Ravasi oggi è di Jules Renard, l'autore del popolare Pel di Carota, un libro del 1894. La citazione è questa: non bisogna dire tutta la verità, bisogna dire solo la verità. La verità è ciò di cui occorre sbarazzarsi al più presto per rifilarla a qualcun altro. Chi conserva la verità in mano ha perso. E scrive Gianfranco Ravasi, per spiegarci la scelta di questo passo, due differenti avvertenze sulla verità, che per alcuni è una parolona, per altri invece un vuoto termine filosofico. Cominciamo con la prima frase dello scrittore francese Jules Renard, l'autore del popolare Pel di Carota. La sua è una distinzione tra la verità dovuta e non dovuta. Nel secondo caso, infatti, si dice la verità, ma non tutta la verità. Certo, è una linea di frontiera molto delicata, ma la bussola a guidarci dovrebbe essere sempre una virtù rara, che però tutti credono di possedere in abbondanza, cioè il criterio, la vedutezza, il discernimento. Si tratta di un volto particolare della ragione, che ti conduce a saper sceverare ciò che è bene, comunicare da quello che è meglio resti riservato. Talora le situazioni possono essere delicate. Pensiamo al caso della verità da rivelare al malato grave. Per questo, accanto al dono dell'intelletto, si assegna allo Spirito Santo anche quella del consiglio, così come nella lista delle virtù cardinali brilla la prudenza. E allora passiamo all'altro ben più amaro asserto di Jean Baudrillard, che era la seconda parte della frase che vi ho citato all'inizio. Noto sociologo francese, studioso della società dei consumi. È proprio in questa società che vale la sua rivelazione. La verità è qualcosa di fastidioso e scottante, il classico cerino acceso, chi non riesce a passarlo di mano si brucia le dita. Un altro scrittore francese pessimista e scandaloso, Céline, nel suo celebre Viaggio al termine della notte non esitava: la verità di questo mondo è mortifera, bisogna scegliere, morire o mentire, io non ce l'ho fatta ad ammazzarmi. Terribile, ma con un'anima di verità, è il caso di dirlo, conclude Monsignor Ravasi. E c'è invece chi ha avuto il coraggio di scottarsi per la verità, anzi di morire per essa. Forse anche noi potremmo per essa fare un piccolo sacrificio. E vi segnalo dalla prima pagina dell'Avvenire anche un editoriale di Marco Tarquinio, il direttore dell'Avvenire, perché il quarto giornalista rapito e poi liberato era un giornalista appunto dell'Avvenire, Claudio Monici, e scrive Marco Tarquini in questo editoriale intitolato Siamo segni, gioia e dolore all'Avvenire. Gioia e dolore si mescolano ogni giorno nella vita degli uomini e delle donne e la segnano con le loro lame affilate. Negli ultimi due giorni dolore e gioia ci hanno investito con vertiginosa intensità, segnando nel profondo ognuno di noi e l'intera redazione di Avvenire. Ci hanno severamente chiesto conto della nostra speranza e lo hanno fatto qui, ora, con la franchezza imprevista e brutale della cronaca, che è nostro mestiere ed è sempre, e mai dobbiamo dimenticarlo, vicenda e sentimenti e attese d'altri. Gioia e dolore per noi di Avvenire sulla verticale che congiunge Milano e Roma a Tripoli. Si sono racchiusi soprattutto in due nomi, Claudio Monici e Domenico Montalto. Il riferimento è appunto alla vicenda di Claudio Monici, il giornalista liberato, e poi invece a Domenico Montalto, un esperto d'arte che scriveva per Avvenire e che è mancato proprio ieri, come una specie di traffico di anime, insomma, chi resta e chi va via. Vi lascio ora alle informazioni sul traffico, ci risentiamo subito dopo per le pagine interne dei quotidiani. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e ringrazio, anche perché oggi è il mio ultimo giorno, tutti gli ascoltatori che stanno mandando degli sms che mi fanno molto piacere, e anche se poi naturalmente leggo e rifletto anche su quelli che magari sono più critici. Comunque passiamo dalle prime pagine dei giornali di oggi a quelle interne, e vi segnalo prima di tutto un articolo di Michela Marzano, che in realtà comincia dalla prima pagina di Repubblica e poi continua a pagina 47. Michela Marzano è una filosofa italiana, è nata nel 1970, quindi giovane per gli standard italiani, vive in Francia da moltissimi anni. Nel 2010 ha pubblicato un libro che si intitolava Sì bella, stai zitta, perché l'Italia di oggi offende le donne, e oggi dalla prima pagina della Repubblica racconta del suo ultimo libro, che si chiama Volevo essere una farfalla, che verrà presentato al Festival della Mente di Sarzana domenica 4 settembre. È un libro sull'anoressia, è la prima volta che Michela Marzano parla di questo inferno che ha attraversato e dice superato, ed è veramente, sono parole molto belle su una questione che spesso viene trattata con molta superficialità, perché sulla malattia c'è ancora abbastanza un tabù, e soprattutto chi non l'ha vissuta, le famiglie delle persone che non hanno vissuta, fanno fatica a capire questa malattia e tutti gli altri disturbi alimentari. Vi leggo questo racconto di Michela Marzano. C'è poi a pagina 47 anche un articolo di Daria Galateria, sempre su questa questione. Così ho combattuto con la mia anoressia. Pensavo che non ne avrei mai parlato, che sarebbe rimasto per sempre il mio segreto. che non avrei mai permesso a nessuno di sfiorare le mie fratture e le mie debolezze. Poi, pian piano, raccontare la mia storia è diventata una necessità, perché l'anoressia non è una cosa di cui ci si deve vergognare. E vi leggo poi le ultime righe. È anche attraverso la mia anoressia che ho imparato a vivere. Senza quella sofferenza forse non sarei diventata la persona che sono. Probabilmente non avrei capito che la filosofia è un modo per raccontare la finitezza e la gioia, gli ossimori e le contraddizioni, il coraggio immenso che ci vuole per smetterla di soffrire e la fragilità dell'amore che dà senso alla vita. È questo che ho voluto raccontare nel mio libro per condividerlo con gli altri, per mostrare che c'è un modo per uscirne, una filosofia della resistenza e della speranza. Ed è appunto il libro che si intitola Volevo essere una farfalla, pubblicato da Mondadori, credo in libreria in questi giorni, un libro che sarà presentato al Festival della Mente di Sarzana domenica 4 settembre. Dalla Repubblica, vi segnalo anche la rubrica di Michele Serra, La Maca. Non siamo riusciti a leggerla spesso in agosto, perché in agosto Michele Serra in generale va in vacanza, adesso da qualche giorno è tornato. Oggi è dedicata alla questione del razzismo. Nasce un nuovo partitucolo fascista e sul suo sito promette un cappio al cronista di Repubblica Marco Pasqua, che ne ha raccontato le intenzioni omofobe, antisemite, anticostituzionali. Come sempre il ridicolo, uniformi da nazista fai da te e un leader che sembra uscito da Springtime for Hitler di Mel Brooks, rischia di fare ombra alle atroci idee di purificazione che agitano quelle menti violente. Dopo i fatti di Norvegia, dovremmo avere imparato noi europei che non è folklore, è odio paranoico ciò che muove certi ambienti. Ma in Italia per adesso solo la comunità ebraica e i due principali partiti della sinistra, PD e SEL, hanno levato la loro voce contro il prossimo raduno nazionale che quel partitucolo minaccia di tenere a Genova in settembre. Ha proprio ragione Aldo Cazzullo, che qualche settimana fa ricordava all'opinione pubblica italiana, inorridita dal fascismo scandinavo, che il fascismo l'abbiamo inventato noi, e si vede. Prospera nelle curve degli stadi, nel linguaggio e nel ceffo tracotante di troppi politici, nel priapismo del capo, quello di adesso, lambisce e contamina lo stesso governo di centrodestra, e la si nota questa familiarità, questa dimestichezza storica, anche nella facilità con la quale il nostro paese lo tollera e lo giustifica. Un abbraccio affettuoso a Marco Pasqua. La solidarietà in casi come questi non è mai una formalità. E vi segnalo anche un'altra breve rubrica, sempre da Repubblica, di Maurizio Crosetti, un giornalista sportivo di Repubblica, ed è dedicata, si fa per dire, a Samuel Eto'o, il giocatore dell'Inter che si è appena lasciato Milano per una squadra del Dagestan. La rubrica si chiama SMS dal Dagestan. Prima di scappare verso 20 milioni di euro netti all'anno dicendo non lo faccio per i soldi, certo, lui cambia squadra per il clima del Dagestan, per la cucina, per il paesaggio, per imparare la lingua, per ascoltare i cori razzisti, a proposito di razzismo, per incontrare amici terroristi. Samuel Eto'o ha scritto una letterina nella quale ringrazia il presidente Moratti, la famiglia Moratti, José Mourinho e gli allenatori avuti all'Inter, il direttore dell'area tecnica, il direttore sportivo, il team manager, tutto il personale del club di Appiano Gentili, i medici, i fisioterapisti, gli accompagnatori, i cuochi, i camerieri, i magazzinieri, i giardinieri, i dipendenti di Interchannel, tutti i tifosi, in particolare Mauro. Poi Crosetti mette un punto interrogativo tra parentesi, il suo manager, la sua mamma italiana Ciacia, altri due punti interrogativi tra parentesi, quel testone di Materazzi, perfino i giornalisti. Sarebbe bastato uno sguardo, un ciao balbettato, sempre molto meglio di questo freddo elenco del telefono. Invece Eto'o ha fatto come quelli che si mollano con un SMS, ha lasciato un bigliettino sotto la porta e poi più niente, come tutti quelli che si nascondono delle belle parole, spesso false, invece di sporcarsi con la vita. E vediamo, insomma, oggi ritorna un po' nelle rubriche questo tema della verità. Ma passiamo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che non abbiamo guardato prima. Il palchettone è non si gioca, salvo miracoli, stava nell'annuncio, l'avete sentito anche nel GR, probabilmente prima giornata di Serie A, mentre quella di Serie B no, ma la prima giornata di Serie A salterà, era prevista per domenica prossima, ma i giocatori restano saldi nel loro proposito di scioperare. L'apertura vera e propria è dedicata al sorteggio della Champions League, che ieri ha appunto pescato i primi avversari di Milan, Inter e Napoli. Il Milan trova il Barcellona, Inter sembra facile, ma Napoli tutto difficile. E poi una foto con Ibrahimovic da una parte, appunto il bomber dell'Inter, a proposito di passaggi da una squadra all'altra milionari, e poi vicino c'è Messi, il bomber appunto del Barcellona, Lionel Messi. E poi dalla Stampa, da pagina 18, vi segnalo un articolo sul doppio incarico, che è una delle questioni di cui si occuperà Irene Zerbini in 24 ore mattino, in 24 mattina, e si intitola l'articolo "Cancellare la norma sul doppio incarico, i parlamentari contro l'incompatibilità", e con questa scusa, questa giustificazione che toglierà soldi agli enti locali, questa norma anti-incarico. E vi segnalo dalla stampa anche una pagina intera dedicata a uno studio dell'economista americano Daniel Hammermesh. La sua conclusione è: la ballezza paga, ho scoperto quanto. Quindi ha misurato questa teoria, che in realtà non è nuova, secondo la quale chi è bello esteticamente, poi naturalmente definire la bellezza sarebbe ancora un'impresa, che altro che una pagina ci vorrebbe. Comunque, diciamo che quelli considerati belli, naturalmente si fa l'esempio di George Clooney, guadagnerebbero di più. Appunto, secondo l'economista americano, se sono uomini guadagnano il 4% in più, e se sono donne guadagnano l'8% in più dei brutti. Anche qui definire i brutti un'altra impresa ardua. Vi segnalo poi dall'Avvenire, si parlava prima di verità o anche di notizie dimenticate, il Corriere sottolineava come per 4 giornalisti rapiti, liberati, ci sono altre persone sequestrate, come i marinai ostaggi dei pirati della Somalia, che appunto forse, di cui forse dovremmo ricordarci ogni tanto, e un'altra guerra dimenticata è quella un'altra tragedia dimenticata, quella della Somalia. Ne parla l'Avvenire: carestia è partito in salita al vertice africano sugli aiuti. E dal Riformista invece un reportage dal più grande campo profughi che c'è in questo momento sul nostro pianeta, che è quello in Kenya, e c'è un reportage di Giacomo Arbabello. Ma purtroppo oggi c'erano ancora tante cose da segnalare. Un'ultimissima segnalazione sul Manifesto, l'avevo fatta venerdì scorso, prosegue la 7ª puntata l'analisi dei protagonisti dell'editoria. Per gli appassionati di letteratura, o comunque chi volesse lavorare nel mondo dell'editoria, 2 pagine sul Manifesto. E purtroppo però il mio tempo è finito, era anche l'ultima rassegna stampa, e quindi vi saluto tutti. È stato molto bello fare questa rassegna stampa in agosto, magari ci riproveremo insomma in futuro. E ora insomma, why drink and drive when you can listen to Giulia Crivelli and fly. Esagerato. E non è una citazione mia, ce lo scrive da Como Corrado, e su questo tono moltissimi messaggi di persone che si accomiatano da te. Naturalmente l'appuntamento è alla prossima, indefinito, ma sempre su Radio 24, perché Giulia Crivelli, oltre che giornalista del Sole 24 Ore, è anche una delle voci della radio con la sua English 24. Grazie davvero, grazie per questa approfondita scelta, approfondita selezione, e per tutto quello che ci hai letto. È stato un agosto straordinario con te. A presto. Grazie Irene, e poi a presto anche a te, perché anche per te. Anche per me l'ultima puntata.